518. Luccio in umido. Il luccio è un pesce comune nelle nostre acque dolci che si fa notare per certe sue particolarità. È molto vorace e siccome si nutre esclusivamente di pesce, la sua carne riesce assai delicata al gusto. Però, essendo fornito di molte lische, bisogna scegliere sempre individui del peso di 600 a 700 grammi. Sono anche da preferirsi quelli che vivono in acque correnti, i quali si distinguono per la schiena verdastra e il ventre bianco argentato, mentre quelli delle acque stagnanti si conoscono dall'oscurità della pelle. Si trovano dei lucci del peso fino a 10, 15, anche 30 kg e di un'età assai elevata, credesi perfino di oltre 200 anni. Le uova della femmina e gli spermatofori lattiginosi del maschio non vanno mangiati perché hanno un'azione molto purgativa. Ammesso che abbiate da cucinare un luccio dell'indicato peso all'incirca, raschiategli le scaglie, vuotatelo, tagliate via la testa e la coda e dividetele in 4 o 5 pezzi che potranno bastare ad altrettante persone. Ogni pezzo steccatelo per il lungo con 2 lardelli di lardone conditi con sale e pepe e poi fate un battuto proporzionato con cipolla quanto una grossa noce, un piccolo spicchio d'aglio, una costola di sedano, un pezzetto di carota e un pizzico di prezzemolo, il tutto tritato fine perché non occorre passarlo. Mettetelo al fuoco con olio e quando avrà preso colore fermatelo con sugo di pomodoro o conserva sciolta nell'acqua, sale e pepe per condimento. Poi condensate alquanto questo intinto con un pezzetto di burro intriso nella farina. Mescolate bene e collocateci il pesce facendolo bollire ad agio e rivoltandolo. Per ultimo versateci una cucchiaiata di marsala o, mancando questa, un gocciolo di vino e lasciatelo bollire ancora un poco prima di mandarlo in tavola in mezzo alla sua salsa. 519. Palombo fritto. Tagliate il palombo in rotelle non tanto grosse e lasciatele in infusione nell'uovo alquanto salato per qualche ora. Mezz'ora avanti di friggerle, involtatele in un miscuglio formato di pangrattato, parmigiano, aglio e prezzemolo, tritati, sale e pepe. Un piccolo spicchio d'aglio basterà per grammi 500 di pesce. Contornatelo con spicchi di limone. 520. Palombo in umido. Tagliatelo a pezzi piuttosto grossi e poi fate un battuto con aglio, prezzemolo e pochissima cipolla. Mettetelo al fuoco con olio e quando avrà soffritto a sufficienza collocateci il palombo e conditelo con sale e pepe. Rosolato che sia, versateci un po' di vino rosso o bianco asciutto e sugo di pomodoro o conserva per tirarlo a cottura.